Siamo ritornati qui in onda, è stata una puntata che variopinta, possiamo definire così, quando abbiamo parlato di cucina, abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato, ed era un giusto omaggio di Marco Simoncelli, e abbiamo parlato anche degli episodi farlocchi successi nel giorno funesto per Luzzi, sabato 1 ottobre. Non avevo parlato di un episodio successo al presidente del Crotone, all'ex presidente del Crotone, Raffaele Vrenna, che è stato colpito con una mazza da baseball, manco fosse Charlie. È stato aggredito dunque da 3 individui che hanno cercato di trascinarlo fuori dall'auto e l'hanno colpito al braccio sinistro, questo 15 giorni fa. Vrenna, che non è morto ed è riuscito addirittura a scappare, e nello stesso pomeriggio è stato operato per una frattura del ulna. Motivi escluso al calcio, ma senza dubbio legati a un qualche impianto di depuratore, visto che Vrenna fa questo nella vita. Ma a proposito di sciagure, dunque, apriamo, spalanghiamo la persiana e mandiamo la solita perla di Ruopolo, in questo caso Ruopolo e l'episodio dello scippante.